Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: poco mosse le borse, praticamente invariata Milano, invariata anche l'America oggi aperta, invariata meno 0,1 Francoforte, meno 0,20 Parigi, più 0,60 invece Londra. Questo dicevo nel giorno in cui però il nostro spread conosce un nuovo calo, sotto anche i 190 punti. È la prima volta a soglia 190 punti dal 30 giugno del 2011, e soprattutto il rendimento a 10 anni del BTP è al 3,56%. Anche per quello che riguarda invece le vicende di carattere sia economico che politico, vale la pena segnalare che oggi Standard & Poor's, agenzia di rating, ha detto che resta la finestra in attesa di capire quale sarà il tipo di governo che vorrà formare Matteo Renzi. Mantiene il suo rating pari a triple B sulla Repubblica Italiana, sempre con prospettive negative. Moody's invece l'aveva migliorato venerdì notte come prospettive, portandola a stabili. Siamo ancora comunque a schermaglie e dettagli, va bene però che lo spread sia sotto i 190 punti, ci mancherebbe. Il tema però oggi sarà il nostro tema di apertura, riguarda il vertice Ecofin dei ministri finanziari dell'area euro, ieri sera quello dell'Eurogruppo, e ricorderete, avete sentito le nostre GR, le dichiarazioni del commissario agli affari economici Olli Rehn sullo sforare il tetto del 3% del deficit sul PIL. Confido che l'Italia rispetti i trattati, compreso quello della stabilità e della crescita. E poi oggi anche il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem ha detto si può dare più tempo all'Italia a certe condizioni. Perché questo? Perché insomma è dibattito il fatto che Renzi non abbia mai fatto mistero che la soglia del 3% la ritiene anacronistica. È tornato su questo anche il ministro dimissionario all'economia Fabrizio Saccomanni, per cui ascolteremo anche alcune sue dichiarazioni, ma soprattutto insomma prende piede nel vertice dei ministri economici e finanziari l'ipotesi che l'Italia possa chiedere un ammorbidimento del tetto del 3%. Attenzione, lo dico per completezza di informazione, un ammorbidimento lo hanno già ottenuto Francia e Spagna, perché hanno ottenuto di non dover rientrare nel tetto del 3% e di poterlo sforare. Perché questo? Perché hanno un debito diverso dal nostro, dicono i rigoristi. Va bene, però c'è già un precedente, e ci fu un precedente storico nel 2006, vado a memoria, spero che la memoria non mi inganni, 2005-2006, quando... o il 2003, adesso erano anni difficili. Comunque adesso andiamo a ritrovarlo. Quando Francia e Germania sforarono il tetto del 3%, non vennero sanzionate, grazie anche all'appoggio dell'Italia, e quindi non partirono le sanzioni per Francia e Germania. Dovrebbero ricordarsi i tedeschi, quando toccò loro di essere sopra quella soglia. Detto questo, parleremo anche del mondo delle piccole e medie imprese. Oggi a Piazza del Popolo una manifestazione congiunta di artigiani e commercianti delle 5 associazioni che aderiscono alla rete Imprese per l'Italia: Casa Artigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. Senza impresa non c'è l'Italia, riprendiamoci il futuro, che fa il paio con quanto avvenuto la settimana scorsa con le 5.000 rose consegnate, una per ogni azienda associata alla Confindustria Piemonte, consegnate davanti a Montecitorio con lo slogan "Amo l'Italia ma ora basta", nel senso che le imprese lamentano un paese senza cultura di impresa nelle sue leggi, nelle sue norme burocratiche, nelle sue iniziative fiscali. E in effetti devo dire che di tutte queste manovre economiche la parte riguardante le imprese è stata veramente, veramente modesta. Allora decidiamoci se vogliamo mantenere il tessuto produttivo, ciò che ne resta del nostro paese, è bene iniziare a concentrare gli sforzi, le risorse su chi il lavoro lo produce, e a casa mia lo producono le imprese. Il che non vuol dire tagliare brutalmente gli impiegati del pubblico impiego, ma renderlo più efficiente, sì, e su questo, soprattutto sugli stipendi di alcuni dirigenti, se posso permettermi. Detto questo, appunto affronteremo anche il tema delle piccole e medie imprese e poi il dato auto. Perché lo dico? Noi non sempre copriamo i dati sulle matricolazioni, però a mio avviso oggi è interessante perché il 2014 è iniziato in Europa e anche in Italia, in piccola parte, con il segno più per le matricolazioni auto, più 5,2% in media in Europa, Italia più 3%, Spagna più 7,6%, Germania più 7%, Gran Bretagna più 7,6%. Ecco perché dispiace, lo dico molto seriamente, dispiace vedere che il gruppo Fiat, invece, nonostante una ripresa delle matricolazioni in tutta Europa, perché anche la Francia ha avuto una leggera ripresa, il gruppo Fiat continua a cedere quote di mercato, meno 1,8% a gennaio, e la quota del gruppo Fiat scende al 6,2% rispetto al 6,6% di un anno fa. E allora lo dico in maniera molto tranquilla, ci siamo molto occupati di Fiat in queste settimane, la sede legale dove la metti, la sede fiscale dove la metti, Chrysler, magari occuparsi anche del fatto che questi modelli evidentemente qualche problema ce l'hanno in Europa, non si può dare sempre la colpa a qualcun altro. Allora, il mercato sale, le matricolazioni salgono, Volkswagen fa più 8%, Peugeot fa più 7%, Renault fa più 13%, Ford fa più 9%, quindi i concorrenti, Toyota fa più 15% e tu Fiat fai meno 1,8%. Possiamo ascoltare qualche dichiarazione di Marchion o anche di Elkann su questo tema? Chiedo, visto che si tratta di un gruppo importante che molto fa parlare di sé, ma per altri motivi, cioè sui modelli, su come intendono aggredire il mercato. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. La Svezia è in deflazione, uno può dire chi se ne frega, no, in realtà è il primo paese che ufficialmente inizia a avere i prezzi nominali in calo, meno 0,1%, nel giorno in cui scopriamo che anche l'indice tedesco ZEV, che misura la fiducia degli investitori sulla base delle prospettive nei prossimi 6 mesi, è crollato a sorpresa a 55 punti a febbraio contro i 61 di gennaio. Tutti gli analisti pensavano a una conferma del dato, 61 punti. E tra l'altro, insomma, questo vuol dire che a mio avviso il crollo dei consumi del Sud Europa si sta facendo sentire anche negli altri paesi. Avete ragione, era il 2002-2003 quando Francia e Germania sforarono il tetto del deficit, adesso appunto il dato è esatto, e lì non beccarono nessuna sanzione. Vi fu un ragionamento che aveva anche un senso politico, a mio avviso, però non fu poi rispettato. L'allora Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro dell'Economia Tremonti pensarono, beh, se, la dico in maniera un po' brutale, ci mostriamo accondiscendenti con la Germania, quando toccherà a noi anche loro se ne ricorderanno. Col cavolo, i tedeschi adesso sono i patrioti del rigore, ad ogni costo, ad ogni costo. Oh, io devo dire che sono d'accordissimo con un tedesco che è il presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, che ha detto oggi: abbiamo dato miliardi e miliardi di euro per salvare le banche europee, perché diciamo che le banche sono rilevanti per il sistema euro, ma i nostri giovani non hanno lavoro. Questo è inaccettabile. Un'intera generazione paga in termini di possibilità per la propria vita i costi di una crisi creata da altri, e aggiungo anche da altri settori. Leggi finanza, leggi banche d'affari, leggi super manager, leggi operazioni spericolate e via così. Chi è che mi chiede lo spread scende, è effetto Renzi sì o no? Ma no, dai, vi prego, sapete già come la penso sull'effetto Renzi. C'è un effetto Banca Centrale Americana, Federal Reserve, c'è un effetto liquidità e stabilità su tutta l'area euro, e c'è un'Italia che comunque è sicuramente vista come più affidabile, ma dire che lo spread in calo è un effetto Renzi, guarda che calava anche negli ultimi mesi e settimane del governo Letta, eh. Allora, andiamo avanti per quello che riguarda invece Renzi. Il Financial Times apre su Matteo Renzi, dice che mette a punto un'agenda di riforme ambiziose per i primi 100 giorni di governo e continua il Financial Times con una radicale dichiarazione di intenti. Il 39enne leader del PD ha detto di voler andare avanti questo mese col progetto di cambiare la Costituzione e la legge elettorale per rendere il governo più stabile ed efficace. Le banche, le sofferenze bancarie sono ancora ai massimi. A gennaio 2014, secondo il rapporto dell'ABI, sono salite a 156 miliardi di euro e quindi i crediti, i soldi prestati che non torneranno o difficilmente torneranno indietro. Il rapporto fra sofferenze e impieghi, quindi fra i soldi prestati che difficilmente torneranno indietro e tutti i soldi prestati, è ormai all'8%. È il livello più alto dal maggio del 99, quando era all'8,37%. Continuano a calare i prestiti delle banche, anche se il calo è in rallentamento, mettiamola così. I prestiti alle famiglie e le imprese hanno fatto meno 4%, un dato analogo al mese di dicembre. Si conferma che il 2013, anno difficile per l'economia da moltissimi punti di vista, è stato un buon anno per il commercio con l'estero, un record dal 1996, il surplus della nostra bilancia commerciale, anche per merito di importazioni in calo, però la differenza tra quanto abbiamo importato ed esportato è a vantaggio nostro per 30 miliardi e mezzo. Se leviamo la bilancia energetica, cioè l'energia che dobbiamo importare per forza, avremmo un attivo di bilancia commerciale di 85 miliardi. E poi, secondo la classifica, l'annuale classifica di Brand Finance, il marchio più influente al mondo resta la Ferrari, precede la Coca-Cola, la società finanziaria Pricewaterhouse e anche il marchio Google, finito al quinto posto. È la classifica sui 500 marchi più influenti al mondo ed era già stata capeggiata dalla Ferrari l'anno scorso. Questo arriva nel giorno in cui la Ferrari diffonde i suoi conti, l'utile netto sale del 5,5% a 246 milioni, i ricavi vanno a 2 miliardi e 300 milioni di euro. E visto che stavamo citando le cifre, fatemi anche dire che oggi sono usciti i dati d'ascolto del 2013 e la Radio 24 ha fatto uno dei dati migliori in assoluto tra le radio italiane, più 9,6% l'ascolto nel 2013 rispetto al 2012, grazie a tutti voi, quindi grazie a tutti gli ascoltatori dalla mattina fino alla sera per questo dato. Chiudo questa brevissima parentesi, partiamo subito con il primo tema e mi riferisco al vertice Ecofin, alle preoccupazioni, anche se non vogliono ammetterlo, che il governo Renzi possa essere un governo che vada, io dico, a battere i pugni sul tavolo a Bruxelles, ma insomma a dire basta impiccarsi, immolarsi, raggiungere i record di disoccupazione, creare disagio sociale per questa soglia del 3% che non è scritta sulle tavole della Bibbia. Allora, ieri Olli Rehn, che aveva messo le mani avanti, commissario europeo, confido che l'Italia rispetterà i trattati, è un paese europeista, quindi rispetterà anche il trattato sulla stabilità e la crescita, leggi deficit al 3% massimo del PIL. Oggi il presidente dell'Eurogroup, Dijsselbloem, ha detto, l'Italia potrebbe avere più tempo, come altri stati, con condizioni supplementari potrebbe ricevere più tempo dal commissario europeo. Però diciamo il ministro uscente all'economia Saccomanni da Bruxelles, a margine dell'Ecofin, posso dirlo, mi è sembrato più rigorista, più realista del re. Bisogna, la politica di bilancio non è in discussione e quindi manterremo quanto già deciso dal governo Letta. Nel comunicato del 22 novembre non c'era nessun riferimento a deadline, si parlava del processo di bilancio del 2014, siamo a metà febbraio, evidentemente adesso c'è il cambio di governo, ma insomma però non mi pare che ci siano intenzioni di non portare avanti questi tipi di iniziative che abbiamo fatto. La cosa che capisco è che c'è una domanda di accelerazione su altri fronti e cose di questo genere, ma questi che sono un po' i capisaldi della strategia parallela della politica di bilancio non sono in discussione. E poi sempre Saccomanni, adesso io vi faccio ascoltare perché io non ho capito molto, lui dice che è probabile che le stime dell'Unione Europea sulla crescita siano più negative delle nostre, anche se più positive di quelle che la Commissione pensava qualche tempo fa. Possiamo sentirlo, Stefano? È probabile che le stime della Commissione siano un po' più negative di quelle che avevamo formulato noi, anche se probabilmente sono più positive di quelle che la Commissione pensava qualche tempo fa. Insomma, oggi il vicepresidente Rehn nella riunione si è dilungato sul elencare i fattori positivi per il quadro europeo, che poi ha una implicazione anche sulla situazione italiana. Poi cercheremo di capire con un'esegesi attenta. E poi la frase che più farà discutere è la ripresa nella seconda parte del 2013 dovuta a misure che abbiamo adottato noi, dice Saccomanni. Home ground, quindi è crescita da interna, crescita fatta in casa. Io sono convinto che la ripresa della seconda parte del 2003 è dovuta alle misure che abbiamo preso noi. L'Italia è famosa per non prendere il treno delle riprese altrui, quindi questa qui per una volta è una ripresa, come dire, totalmente homegrown, cioè prodotta in casa. Adesso io non posso polemizzare ogni giorno con il ministro Saccomanni, ma quale ripresa nel 2013? Ma dove sono i dati sulla ripresa? Ma io ogni tanto impazzisco, ma abbiamo chiuso l'anno con un meno 1,9%, è andato negativo anche l'ultimo trimestre, ci sarà un 2014 che se va bene fa più 0,6, più 1, io non ho capito quale sia la ripresa della seconda parte del 2013, ma dov'è? Ministro, dov'è sta seconda parte del 2013 in ripresa? Tiri fuori i dati a questo punto, quelli veri, perché quelli che abbiamo visto fino adesso dell'Istat hanno fatto segnare il peggior anno come calo del PIL dopo quello disastroso del 2009. Dov'è la ripresa nella seconda metà dell'anno? Se no torniamo a ridiscutere di quello che avete già discusso tra Letta e Squinzi, il paese in ripresa. No, ma dove l'avete vista sta ripresa? Homegrown. Ma qua, vabbè. Dino Pesole in collegamento con noi da Bruxelles, no, da Roma, sì, buonasera. Buonasera, Dino. Buonasera. Ecco. No, senti, forse adesso, per non sembrare troppo polemico, forse non capisco io, ma veramente Saccomanni vede una ripresa nella seconda parte del 2013? Allora, è un'aspettativa che peraltro il governo ha pure inserito nei documenti ufficiali. No, 2013 dice lui, eh? No, 2013 assolutamente no, cioè, 2013 non se ne parla proprio. Cioè, le agenzie, adesso, io sono impazzito, le agenzie recitano, scusatemi, la ripresa della seconda parte del 2013 è dovuta, e l'abbiamo appena sentito, si sbaglia anche, dice 2003, ma insomma, 2013 è dovuta a misure che abbiamo adottato noi ed è una crescita interna. Io qua, ognuno può dire quello che... Probabilmente si riferisce al fatto che quel modesto 0 più 1 dell'ultimo trimestre registrato dall'Istat si possa attribuire a misure, ad esempio l'accelerazione dei debiti del pagamento dei debiti della PA, ma insomma, diciamo, si tratta sempre di cifre modestissime. Il punto di fondo è che si continuano a divergere le stime tra Bruxelles e Roma, su questo non c'è dubbio, perché la Commissione prevede per quest'anno, se va bene, lo 0,7 al momento. Il governo prevede l'1,1 e quindi balla lo 0,4. Non è poco, perché balla un 50, cioè, tra lo 0,7 e l'1,1 c'è più del 50% di differenza, faccio notare, no? Per cui devo dire che la Banca d'Italia prevede 0,7, il Centro Studi Confindustria prevede 0,7, la Commissione Europea prevede 0,7, l'OCSE prevede 0,6, il Fondo Monetario prevede 0,6 e poi il governo Letta l'1,1. Evidentemente ha diciamo delle fonti diverse dalle nostre. Comunque andiamo avanti. Cos'è tutta questa paura di Bruxelles del 3%? Perché insomma, scusate non petita, ma tutti, sia Dijsselbloem, giusto come lo pronuncio, mi correggono alcuni ascoltatori, e Olli Rehn, tutti a dire attenzione, il tetto del 3% va rispettato. Ma sì, questo è il solito monito che arriva da Bruxelles, ognuno fa la sua parte. Dunque, il problema è sostanzialmente questo, ma credo che Saccomanni in qualche modo l'abbia anche spiegato oggi in conferenza stampa. Si può anche sforare il tetto del 3%, non è che ci vengono lì con i cannoni a bombardare la capitale se noi facciamo un deficit un po' più alto. Il problema riguarda sostanzialmente quello che lui dice, cioè il giudizio sui mercati, che deriva dal fatto che noi rientriamo in procedura per deficit eccessivo e dunque c'è il rischio per un non paese che ha il debito che ha l'Italia di pagarne le conseguenze sui mercati. È una possibilità, è un'eventualità. Si potrebbe obiettare, secondo me è giusto farlo, che qualora, come hanno fatto altri paesi, l'Italia sforasse di 0,2-0,3 questo famoso tetto, assicurando al tempo stesso però che nel prossimo anno quest'anno farà importanti riforme strutturali in grado di spingere l'acceleratore sul PIL, ecco che l'anno prossimo rientreremo con un PIL più forte. Quindi forse si può anche smitizzare questo tabù del 3%. Si tratta di discuterne le condizioni. Ad esempio, c'è una strada che vedo che non viene molto evocata, ma che secondo me potrebbe essere interessante, ed è quella delle famose intese contrattuali, si chiamano così. La discussione si è appena avviata a dicembre in Consiglio europeo e se ne riparlerà a settembre-ottobre sotto presidenza italiana. Vale a dire, qualora un paese volontariamente presenti un pacchetto di riforme molto incisive per spingere l'acceleratore sulla ricchezza, sul PIL, ecco che potrebbero essere concessi degli sconti importanti, degli incentivi, e dunque anche quella è una strada da perseguire, se no non ne usciamo più se continuiamo a impiccarci al rispetto dello 0,1 o 0,2, perché a questo punto insomma francamente è tempo di andare oltre. Ecco, resta con noi Dino, perché dopo il meteo vorrei capire, adesso è molto presto, non sappiamo ancora. Mi sembra che le varie ipotesi di possibili ministri dell'economia tramontino, devo dire, grazie anche a Radio 24 nel caso di Barca, ma insomma, al di là di tutto, si elidano a vicenda. Però al di là di chi sarà poi il ministro dell'economia, vorrei capire appunto come può un governo Renzi puntare a avere più margini, non voglio dire non rispetto del 3%, senza però andare allo scontro frontale, per quanto a mio avviso un governo ancora più politico su Bruxelles non farebbe male anche a Bruxelles stessa. Ci abbiamo avuto governi prima perché eravamo sotto scacco nell'ultima fase di Berlusconi e Tremonti, poi perché Monti era, diciamo, non ha avuto il coraggio di parlare chiaro all'Europa, non ha avuto questo coraggio forse neanche Letta. L'unico discorso forte degli ultimi anni fatto da un italiano a Bruxelles mi sembra quello del Presidente della Repubblica Napolitano un mese fa. Allora anche l'Europa deve abituarsi che l'Italia prima o poi esprimerà un governo, diciamo, più politico verso l'Europa, magari pure eletto, diciamo, dai cittadini. Detto questo, la risposta dopo il meteo. Convinto fatto che la ripresa della seconda parte del 2003 è dovuta alle misure che abbiamo preso noi. L'Italia è famosa per non prendere il treno delle riprese altrui, quindi questa qui per una volta è una ripresa, come dire, totalmente, diciamo, homegrown, cioè prodotta in casa. Adesso ho capito l'arcano, era il 2003 quello a cui faceva riferimento Ministro, no, è il 2013, voleva dire 2013, ma resto della mia idea, l'abbiamo riascoltato per essere proprio sicuri. Allora, Dino Pesole, prima di salutarci, quale strada potrebbe prendere Renzi? Tu già citavi un'ipotesi per non essere vincolato al 3%, ma non spaventare troppo l'Europa, e mi dai comunque un aggiornamento sul toto ministri di economia e sviluppo? Beh, guarda, l'aggiornamento di oggi è assolutamente calma piatta, perché a ieri sera e ancora questa mattina c'è una grossa difficoltà da parte di Renzi a trovare un nome, perché si continuano ad arrivare rifiuti. Negli ultimissimi minuti ci sarebbe anche una lontana possibilità che possa essere riconfermato Saccomanni, ma lo stesso Saccomanni ha detto che non ha ricevuto per ora alcuna comunicazione. Questo per dire che il nodo resta ancora completamente da sciogliere. Sì, devo dire sembra un po' armiamoci e partite, ma tutti questi grandi condottieri della Leopolda lentamente si stanno sfilando. Serra, tutti hanno ragione, mica sei obbligato. Davide Serra ci ha detto di no in diretta, Guerra, Andrea Guerra ha detto di no con un comunicato, Farinetti ha detto di no per, anche lui con un comunicato. Insomma, mi sembra che tutti quelli papabili sul mondo dell'economia e anche soprattutto delle attività produttive, ma anche su Montezemolo nessuna novità? No, non sembra esserci alcuna novità, ma il problema di fondo è che quella è la poltrona che scotta, perché certo. Dire molti no, non c'è niente da fare, quindi non so Renzi come se la vuole giocare. Quanto all'Europa, ed è tutto evidente che occorre un'offensiva dei governi, e questo va condotto dalle tre economie più forti dell'intera Unione Europea, vale a dire Francia, Germania e Italia. Ci vuole uno sforzo congiunto che potrebbe essere già messo in campo nel prossimo Consiglio europeo per cercare di trovare la strada per investimenti produttivi, ad esempio questa strada che poi noi ci siamo giocati in corso d'opera potrebbe anche essere ripercorsa, o comunque individuare un margine per far sì che il computo o parziale o totale delle spese per investimenti produttivi non vada a incidere sul deficit. È quella famosa golden rule che se non la vogliamo fare per intero facciamo la metà, ma insomma questa è una strada. E in questo modo rispondi anche a chi mi scrive: ecco, volete che la classe politica torni a spendere e aumentare la spesa pubblica? No, attenzione, perché tu potresti, pensavo che Dino Pesole l'avesse spiegato più che chiaramente, potresti mantenere invariata la spesa pubblica improduttiva, parliamo di stipendi, però scorporare dal calcolo del 3% del deficit alcuni investimenti. Oh, ma mio Dio, qualunque imprenditore sa la differenza tra una spesa e un investimento. La spesa è fine a se stessa, l'investimento è sul futuro. Allora, se io costruisco un'autostrada o investo nelle autostrade digitali, è un investimento, non è una spesa. Se devo pagare 20.000 forestali in più è una spesa e basta, non c'è nessun investimento lì dentro, ok? Allora, questo si sta dicendo, per esempio pagare rapidamente le imprese che aspettano ancora 70 miliardi di euro dalla pubblica amministrazione, quello potrebbe, l'Unione Europea ha già dato un primo ok l'anno scorso, potrebbe non essere considerato parte del deficit, perché sono soldi che prima o poi devi dare comunque. Quindi non stai creando nuovo deficit, nuova spesa pubblica. Hai già speso quei soldi che non hai ancora pagato gli imprenditori. Dino? Se posso aggiungere un'ultima cosa, Sebastiano, ma quanto vale in termini di semplificazione, di crescita, se noi riuscissimo subito a fare un robustissimo pacchetto che renda finalmente semplice in questo paese liberarlo dagli oneri burocratici per fare impresa? E questo, ad esempio, è una cosa di cui si parla poco, ma che è una riforma vera e propria strutturale. Allora, se noi riuscissimo a mettere in campo un'operazione del genere, questa sì che potrebbe essere messa in campo per dire: cari signori, voi ci obbligate a fare il tetto del 3%, ma io con questa riforma libero risorse da qua a 10 anni. Ecco. Certo. E cioè non limitarsi a fare il calcolo ragionieristico anno per anno, ma dire attenzione, io con queste misure garantisco o stimo di garantire al paese una crescita tale dell'economia che me ne frego se quest'anno faccio il 3-1, perché poi ho un PIL che continuerà a crescere nei prossimi anni e mi porterà ampiamente sotto il 3%. Questo potrebbe essere, e devo dire che Dijsselbloem a questo accennava, cioè con un piano organico e credibile uno può anche dire vabbè, se questo è il tuo obiettivo, se liberi queste risorse puoi anche essere leggermente sopra, perché in prospettiva sarai sotto e farà ripartire l'economia. Se non riparte il PIL, il deficit continuerà a essere alto, perché è un rapporto tra deficit e PIL, il denominatore è il PIL, più piccolo è il denominatore, più aumenta il rapporto, non c'è niente da fare su questo. Grazie Dino Pesole, adesso andiamo con la borsa. Poi torneremo invece sulle difficoltà delle nostre piccole imprese. Borsa invariata a Milano, invariata a Parigi, invariata a Francoforte, invariata in America, più 0,90 a Londra. Una giornata che non resterà negli annali, ma ci vogliono anche queste. A2A più 1,60, UbiBanca più 1,30 come Intesa San Paolo e Telecom Italia. L'1,20 lo guadagna Atlantia. Lo 0,90 Enel e anche Autogrill e la Pop Emilia Romagna. Lo 0,60 la Pop Milano. Chi perde? Monte dei Paschi meno 1,80, Azimut meno 1,50, Banco Popolare meno 1,30 come Campari e CNH Industrial, Ferragamo meno 1,1, Mediolanum meno 1, Mediobanca meno 1%. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, Monte dei Paschi. Sì, Monte dei Paschi continua a pagare, diciamo, quelle indicazioni della fondazione emersa nel fine settimana di una iniziale riduzione della quota, e chiaramente diciamo, la spada di Damocle che pende sul Monte dei Paschi, soprattutto se la quota verrà venduta in piccole porzioni e non a un investitore in blocco. Quindi il titolo ha perso quasi l'1% nell'ultima settimana, ha perso l'1,8% oggi, così come il Banco Popolare, sono stati i due istituti che sono stati penalizzati maggiormente, nonostante oggi uno spread ancora in riduzione, certamente ne avrete già parlato, sotto quota 190 punti il differenziale tra i titoli italiani e quelli tedeschi. Per quanto riguarda Banco Popolare invece il meno 1,35 è frutto soprattutto di realizzi, perché è un titolo che aveva avuto una bella reazione in borsa negli ultimi giorni dopo il crack legato all'aumento di capitale, all'annuncio aumenti capitale, e aveva guadagnato il 16% nell'ultima settimana. Dopo il traffico, gli altri titoli, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque Andrea, al di là dei bancari, allora, su Telecom veramente è una Telecom novela, si può dire così, perché, anche perché riguarda il Brasile, per cui a maggior ragione è una Telecom novela. Adesso, oggi Patuano ha negato l'ipotesi di vendita di Team Brasil. Sì, diciamo che su questo aspetto c'è sempre una differente posizione tra quella che è il manager di riferimento, appunto Patuano, che insiste sul fatto che il Brasile costituisca appunto il core business e per cui verrà venduto solo in presenza di un'offerta irrinunciabile, e quella che invece sono poi le indiscrezioni che coinvolgono gli azionisti, e in particolare il ruolo di Telefonica, che ha assunto un peso importante nella holding di riferimento, cioè Intelco. E quindi i progetti di Telefonica sull'Italia e sul Sud America sembrano andare nella direzione della vendita del Brasile. Patuano, proprio parlando in un'intervista in Brasile, in un incontro con gli analisti, ha detto: nessuna trattativa per la cessione del Brasile. Solitamente questo penalizza il titolo sul mercato, ma il titolo oggi era ben già orientato da alcuni giudizi di case di investimento che hanno un po' rivisto le prospettive prospettive 2014-2015 con un lieve miglioramento degli utili, e quindi il titolo ha proseguito nella sua corsa, ha guadagnato l'1,2%. Sì, devo dire che Team Brasil ha fatto degli ottimi dati, e obiettivamente lì il discorso sarebbe lungo, ma gli spagnoli di Telefonica ce l'hanno come concorrente in Brasile, Team Brasil, però adesso sono diventati l'azionista di riferimento di Telecom Italia anche, e quindi è diverso dal punto di vista di chi gestisce Telecom Italia e di chi invece è l'azionista di riferimento, perché ce l'ha come concorrente. Comunque andiamo avanti invece su questo, e Fiat, visto che poi parleremo delle immatricolazioni auto. Fiat ha vissuto una giornata di debolezza, è arrivata a perdere lo 0,67%, chiudendo sotto 7,5 euro, era arrivata a toccare un minimo di inferiore anche ai 7,4 euro. Naturalmente l'andamento in controtendenza rispetto alle immatricolazioni europee non è piaciuto al mercato, non poteva piacere al mercato. A livello europeo l'indicazione del l'indicazione di gennaio è stata di un incremento del 5,5%, e Fiat invece ha perso il 2,1% in un contesto di un mercato italiano ancora debole, poco brillante, più 0,5% a gennaio. Questo è il motivo dell'andamento di Fiat, nonostante siano arrivate anche le conferme dei target del 2014, ma chiaramente l'aspetto del mercato europeo e delle immatricolazioni oggi era predominante per gli investitori. Allora, per quello che riguarda invece il volete sapere anche altri settori editoriali, adesso ci arriviamo. Volevo chiudere però su Mediaset, per quello che riguarda i titoli di maggiore capitalizzazione, perché sono sempre settimane intense per Mediaset, che ci ha abituato al sali e scendi in borsa. Andrea. Sì, oggi perde lo 0,7%, mentre da rilevare come in Spagna Mediaset Spagna, che è appunto la controllata del gruppo di Cologno Monzese, ha perso oltre il 3%, contribuendo a fare di Madrid la peggiore piazza in Europa. Chiaramente una volta diciamo persa l'attenzione per il partner della Pay TV, visto che chiaramente il mercato ci sta scommettendo, sta tenendo alto il titolo, ma ogni tanto appunto passa ai realizzi in attesa di novità. Chiaramente adesso ci si concentra su quella che è la partita spagnola, visto che probabilmente per la fine di febbraio si potrebbe sapere di più sul fatto che Mediaset possa conquistare interamente o meno, o in partnership con altri investitori, la Pay TV spagnola Digital Plus, Pay TV che poi dovrebbe essere conferita in una società insieme alla Pay TV italiana che tutti conosciamo, cioè Premium, e poi puntare alla valorizzazione di questo asset. Quindi un momento di pausa per il titolo, attenzione concentrata sulla Spagna per i prossimi giorni. Allora, migliori e peggiori oggi in assoluto per quello che riguarda la borsa: Valore Italia AXA più 21,40, Worldspace più 11,20, Class Editori più 10,90, Ceramiche Ricchetti più 9,46. Fronte opposto: Bialetti meno 14%, Edes meno 12%, Beghelli meno 11%, TAS meno 6,90, CHL meno 6%. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Restiamo in tema di Fiat, o meglio di immatricolazioni auto, perché è ripartito, perlomeno a gennaio, il mercato delle immatricolazioni a livello europeo, anche in Italia, e quindi se ne sono avvantaggiati moltissimi costruttori, tranne uno, la Fiat. Allora, noi di Fiat abbiamo parlato moltissimo per le trattative sindacali, per la proposta fatta ai sindacati, per il piano Fabbrica Italia che doveva garantire, non mi ricordo quante decine di miliardi di investimenti, 20 miliardi di investimenti, di cui poi non si è avuto più traccia, faccio notare. Abbiamo parlato moltissimo anche per il rapporto con Chrysler, per quanto è migliorata Chrysler, bravissimi i manager per quello che riguarda Chrysler. E ne abbiamo parlato anche recentemente per quello che riguarda la sede legale, la sede fiscale, il nuovo nome FCA, FCA o quant'altro. Vorrei però tornare a parlare ogni tanto anche per le auto, se non è un dettaglio, e sarei anche un po' stufo di ricevere lezioni personalmente da Sergio Marchionne, perché abbiamo capito che il paese è indietro, lo sappiamo, che il paese è pieno di caste, lo sappiamo, che è pieno di burocrazia, lo sappiamo, che i sindacati delle volte non hanno avuto la visione lunga e neanche quella corta, lo sappiamo, però adesso insomma sempre ricevere lezioni da chi mi deve dare ancora una dimostrazione di saper fare bene il suo lavoro, lo dico in maniera molto netta, sul mercato europeo delle auto, perché poi in America la Chrysler vada benissimo, siamo contenti, ma io abito in Europa, in Italia, e vorrei sapere come mai oggi Volkswagen fa più 8% nel mercato europeo, Peugeot Citroën fa più 7%, Renault fa più 13%, Ford fa più 8,90%, Toyota fa più 15% e Fiat invece fa meno 1,8%. Con immatricolazioni cresciute in Germania del 7%, in Francia dello 0,5%, in Italia del 3,2%, in Spagna del 7,6%, c'erano gli incentivi, in Gran Bretagna del 7,6%. La quota Fiat scende invece al 6,2% contro il 6,6% di un anno fa. C'è un progresso rispetto al dicembre, ma sappiamo che guardiamo anno su anno, e scende praticamente a 60.000 vetture immatricolate in tutta Europa. E non è che mi rincuori molto il fatto che la Ferrari invece ha fatto ricavi per 2 miliardi e 3, 246 milioni di utile, molto bene, più 5,5%, e venga votata come il marchio più conosciuto al mondo. Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, io non voglio essere troppo polemico, però insomma vorrei anche tornare a parlare di Fiat per le auto senza ricevere sempre lezioni su questo paese. Come mai Fiat va male rispetto ai suoi concorrenti con un mercato che è tornato, perlomeno a gennaio, a comprare auto? Ma il fatto non è nuovo, e anche la spiegazione non è nuova, perché Fiat ha perso per tutto il 2013 e quindi continua a perdere anche nel gennaio di quest'anno. La ragione di fondo, ma forse ce ne sono anche altre, è che Fiat sta facendo una politica di modelli che non consente di mettere sul mercato un numero di modelli sufficiente per far fronte alla concorrenza delle altre case, di conseguenza perde quota. La spiegazione che dà Fiat è che questa politica è stata impostata in funzione di privilegiare soprattutto i margini aziendali, e questo probabilmente è successo ed è uno degli elementi che ha consentito a Fiat di acquistare al 100% Chrysler, probabilmente. Però di fatto la situazione è questa: l'offerta Fiat per quanto riguarda il numero, non dico la qualità, ma il numero di prodotti offerti, non è a livello con quella degli altri, dei suoi concorrenti. A mio avviso hanno ragione gli ascoltatori a dire, quando poi un modello vero, nuovo c'è, penso alla Fiat 500L, quella in versione lunga, che mi sembra che abbia dei buoni dati sulle immatricolazioni, poi il mercato ti premia, no? Però scusami Gianprimo, io ricordavo Marchionne che nelle sue varie dichiarazioni diceva anche, ma insomma io non investo in un mercato dove i consumi calano. Noi modestamente ricordo che dicevamo, sì, però devi prepararti con i modelli quando il mercato ripartirà. Adesso il mercato è un po' ripartito e Marchionne continua a non investire. O stanno arrivando modelli di cui mi sfugge l'esistenza? Beh, gli investimenti non portano sul mercato modelli nuovi nel giro di mesi, perché il mercato è ripartito sostanzialmente, molto debolmente, da 5 mesi. Quindi anche se si fossero prese delle decisioni in questo senso, quando il mercato ha svoltato, cioè alla fine di settembre, sostanzialmente i modelli dovrebbero arrivare molto più avanti nei modelli, poi per fare un modello nuovo i tempi sono veramente molto lunghi, quindi la decisione avrebbe dovuto essere presa, come è stata presa dalle altre case, durante la situazione di crisi. No, resta con noi perché questa cosa mi interessa, devo solo dire una cosa e poi lascio la linea GR a chi dice dovete smettere, i media devono smettere di sparare a zero sul prodotto Fiat. Guardi, non mi faccia parlare, però se c'è un gruppo in questo paese su cui i giornali, i grandi giornali non sparano a zero, è la Fiat di solito, andiamo a vedere anche, per cui non penso che la Fiat abbia avuto i giornalisti e i giornali contro. Detto ciò, GR, ne riparliamo dopo GR. e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, chiudiamo l'approfondimento sui dati delle sulle immatricolazioni auto a livello europeo, che ripeto segnalano un aumento del 5% in tutta Europa, con punte del 7% nelle immatricolazioni in Germania, del 7,6% in Spagna, dove pure c'erano gli incentivi, del 7,6% anche in Gran Bretagna, del 3% in Italia e dello 0,5 in Francia, ma segnalano un calo delle vendite del gruppo Fiat dell'1,8%, con la quota che scende al 6,2. La cosa che mi fa particolarmente così dispiacere è che invece i concorrenti di Fiat, Volkswagen fa più 8, Peugeot fa più 7, Renault fa più 13, Ford fa più 9 e Toyota fa più 15%. Gianprimo Quagliano, si vedo che alcuni con gli sms al 349-238-6666 ironizzano sul fatto che in un'intervista lo scorso 10 gennaio, se non ricordo male, su Repubblica Marchionne disse ci sono capannoni fantasma mimetizzati in giro per l'Italia dove squadre di uomini nostri stanno preparando i nuovi modelli dell'Alfa Romeo. Però insomma, quali nuovi modelli dobbiamo attenderci e con che tempistica, Gianprimo? Le tempistiche non sono brevi, perché occorrono tempi. Se la decisione è stata già presa, i nuovi modelli possono arrivare in tempi relativamente brevi, ma le decisioni non mi risulta che siano state prese. Quindi i tempi non sono brevi, ne arriveranno certamente dei nuovi modelli. Credo che poi Fiat in tutti i suoi comunicati stampa dica che quali sono i programmi di produzione, anzi certamente è così, però non mi pare che ci sia. A breve ci sono molti modelli che possano modificare la situazione attuale. Venendo ai marchi, il problema più grosso dov'è? Su Fiat, su Alfa, su Lancia? Beh, il problema più grosso mi pare su Lancia. Su Alfa Romeo si vuole investire in maniera consistente, su Fiat si vuole puntare su determinati modelli come la 500L, che è un vero successo, però non riesce a colmare le carenze nella produzione di altri modelli. Ecco, questo è sostanzialmente la situazione. Vabbè, speriamo che ci sia qualche inversione di tendenza, anche se tu hai ragione a dire no, perché non vorrei che adesso nel 2014, visto che l'economia europea è prevista comunque in crescita, più debole in Italia, migliore in altri paesi, ma in crescita, sarebbe un vero peccato, mettiamola così, non agganciare una ripresa anche delle immatricolazioni perché ti mancano i modelli. Ecco, questo onestamente sarebbe un peccato. Poi, voglio dire, tutti quanti, tra virgolette, tifiamo Fiat, come sempre tifiamo per le aziende italiane, però in maniera razionale, non solo con l'ottimismo della volontà. Grazie a Gianprimo Quagliano. E invece, parlando di imprese, ma di imprese in difficoltà, oggi nuova manifestazione. La settimana scorsa furono le oltre 5.000 imprese associate a Confindustria Piemonte a consegnare una rosa, quindi 5.000 rose davanti a Montecitorio, 5.900 rose se non ricordo male, con lo slogan amo l'Italia ma ora basta, nel senso basta con politiche che non tengono conto delle imprese e con una cultura anche anti-impresa, vedi le norme burocratiche, vedi la tassazione fiscale e quant'altro. Oggi è stata la volta di 60.000 piccoli e medi imprenditori, commercianti, artigiani. Infatti la manifestazione l'ha organizzata Rete Imprese Italia, che vuol dire Casa Artigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti. E, senza impresa non c'è l'Italia, riprendiamoci il futuro. Questo è lo slogan dei manifestanti. Grazie. associazioni delle piccole e medie imprese chiedono che si intervenga con rapidità e con incisività sulla questione fiscale, sulla burocrazia, sulla legalità. Ci sono tanti punti che penalizzano le piccole e medie imprese, spesso sono costrette a chiudere oppure comunque a non riuscire a creare nuova ricchezza e nuovo lavoro per il Paese. Bisogna intervenire sul fisco, ci devono convocare e dobbiamo discutere di riduzione della pressione fiscale. E così infatti al microfono la nostra Valeria De Rosa, il presidente di Rete Impresa Italia Marco Venturi. Ascoltiamo anche il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, sempre al microfono della nostra Valeria De Rosa. Ha detto Sangalli: chiediamo rispetto, siamo stanchi, chiediamo rispetto perché ne meritiamo di più. Come vede, ci sono tante imprenditrici e imprenditori qui in piazza che vogliono gridare in maniera molto alta, in maniera molto forte, la loro disperazione, vogliono chiedere in maniera immediata un intervento che risolva tutte le emergenze economiche e sociali che stanno attraversando questa importante realtà. Se dovesse capitare, ritorneremo in piazza più numerosi di prima. E poi anche gli artigiani, non ne possiamo più. Il leader di Confartigianato Giorgio Merletti è il grido che ha lanciato appunto dal palco. Non ne possiamo più né come imprenditori né come cittadini. La CNA, abbiamo perso la pazienza, non abbiamo perso la speranza ma abbiamo perso la pazienza, non siamo sereni, siamo in e la politica ci ha deluso. Il leader della CNA Daniele Vaccarino, sempre intervistato dalla nostra Valeria De Rosa. Tutte le normative, le leggi che sono state fatte sono state sempre costruite su un'Italia che non c'è e poi ribaltate sul sistema delle piccole imprese con effetti devastanti. Questo è il concetto. Allora, noi possiamo partire anche dallo statuto delle imprese che è stato approvato e che per esempio diceva che gli appalti vanno spacchettati perché altrimenti le piccole imprese non possono accedere agli appalti. Ebbene, partiamo di lì, cominciamo a ragionare sapendo che il mondo dell'imprenditoria diffusa in Italia è un mondo che conta. Noi vogliamo oggi dimostrare questo. E poi è arrivato anche l'ex vice ministro dell'economia a questa manifestazione, Stefano Fassina, che ha detto: dobbiamo dare risposte in concreto, concrete. La nostra Valeria De Rosa gli ha chiesto perché il governo Letta, di cui lui ha fatto parte fino a novembre, sia stato poco efficace di fronte alle richieste dell'intero mondo delle imprese italiane. Fino alla fine di novembre, quindi per quasi tutto il periodo della sua esistenza, il governo Letta ha dovuto fare i conti con una maggioranza in cui c'era tutto il PDL, che aveva posizioni molto condizionate dalla vicenda personale e giudiziaria di Silvio Berlusconi, che ha inciso, lo posso assicurare, avendo una qualche consapevolezza della discussione del governo, ha inciso sull'agenda del governo, ha distratto il governo rispetto alle priorità economiche e sociali o comunque gli ha impedito di essere concentrato al 100%. Ecco, quella fase si è chiusa, ora la maggioranza politica è liberata dal macigno della vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi e questo spero possa portare a fare quello scatto che non si è potuto fare nei mesi precedenti. Ma in questo quadro politico non ci sono strade in discesa, purtroppo è un quadro politico molto complicato e che spero nessuno abbia sottovalutato nell'archiviazione del governo Letta. Allora, non è che posso polemizzare ogni volta con l'ex vice ministro dell'economia Fassina, però è verissimo che le vicende di Berlusconi e della sua vicenda giudiziaria hanno pesato sulla tenuta della maggioranza, tant'è che poi Forza Italia è uscita. Però, mi scusi Fassina, non è che da quando la vicenda si è chiusa io abbia visto tutto questo progetto di cui avete fatto una manovra di correttiva di legge di stabilità a novembre-dicembre in cui non c'è nulla sul cuneo fiscale, c'è un fondo da 5 miliardi già del tutto svuotato tra cassa integrazione in deroga, finanziamento delle attività militari italiane all'estero e altre cose. E poi ho capito, è vero che politicamente le tensioni di Forza Italia potevano rendere più fragile la maggioranza, ma nessuno impediva di andare avanti con un piano, con un disegno legge a favore delle imprese per sburocratizzare sto cavolo di paese, per rendere finalmente responsabili i funzionari preposti ai controlli nei tempi di risposta, per ridurre la pressione fiscale sulle imprese, soprattutto sui datori di lavoro. Adesso non diamo la colpa a Berlusconi di questo, abbia pazienza. Mariano Bella, che segue tutto l'ufficio studio della Confcommercio, buonasera. Buonasera. Era anche lei oggi a manifestare, Bella? Ma sì. Ma sì. Ma sì, ci mancherebbe, ci mancherebbe. È stata una bella giornata di protesta, ma anche di proposte. Abbiamo dato forma, insomma, a un disagio grave che talvolta è disperazione. E quindi è stata una giornata positiva, esiste un'Italia vitale che appunto non si arrende, e questo è il dato positivo. Dopodiché ci sono una serie di dati negativi che abbiamo messo in evidenza e che lei e i suoi attenti ascoltatori conoscete perfettamente. La cosa grave è che noi oggi ci stiamo baloccando con un più 0,1%, anzi più 0,08 centesimi, quindi 8 centesimi di PIL in più nell'ultimo trimestre, e abbiamo un documento che si chiama Impegno Italia, che è l'ultima cosa che ha fatto il Presidente Letta, che dice che nel corso del 2013, seppure gradualmente, loro hanno ridotto le tasse, il debito pubblico e il deficit. Ora il problema è questo. Io credo che negli uffici studi, nelle imprese, si siano rese conto che si sono ridotte le tasse, il debito. Ecco, allora facciamo così, adesso io ho le informazioni sul traffico, al rientro le faccio ascoltare questa frase di Saccomanni, che a me ha lasciato molto perplesso, che dice che la ripresa che si è registrata nella seconda metà del 2013 è una ripresa dovuta a cause interne. Io veramente sono sorpreso, però poi lei mi deve dire che cosa proponete al futuro governo Renzi, chiunque sia il ministro dell'economia o il ministro dello sviluppo economico. Dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Io sono convinto che la ripresa della seconda parte del 2003 è dovuta alle misure che abbiamo preso noi. L'Italia è famosa per non prendere il treno delle riprese altrui, quindi questa qui per una volta è una ripresa, come dire, totalmente, diciamo, homegrown, cioè prodotta in casa. Io continuo a non capire, c'è chi dice basta con Saccomanni, Barisoni. No, ma io continuo a non capire quale sia la ripresa della seconda metà del 2013. Comunque, Bella. Poi vediamo i numeri, perché i numeri dicono questo: variazione trimestre su trimestre, la seconda parte credo che cominci da luglio, abbiamo 0% e 8 centesimi, 0,1% nel quarto trimestre. Se ora questa la chiamiamo ripresa, dopo aver perso il 10% in termini di PIL pro capite negli ultimi 5 anni, allora diciamo che non c'è più niente da dire, possiamo essere contenti così. Purtroppo, e si è visto oggi, le nostre imprese e i loro dipendenti non sono affatto contenti, anzi sono stremati, perché chiudono, perché chi resiste deve far fronte a crescenti difficoltà, e quindi forse c'è bisogno di un cambio di passo. La protesta nasce da questo. La politica, per la quale noi tutti abbiamo il massimo rispetto, perché non bisogna nemmeno banalizzare, è anche una cosa complicata, però la politica deve darsi dei tempi coerenti con il cambiamento della società. Ora c'è una delega che è passata, questa delega dice entro 12 mesi il governo deve emanare decreti legislativi, per esempio per la riforma del catasto o per la generalizzazione della compensazione crediti e debiti fiscali, due cose ottime, ma non si può aspettare altri 12 mesi. Ecco, questo chiediamo, il cambio di passo che chiediamo è proprio di questo genere, bisogna fare subito le cose. Va benissimo anche la riforma elettorale, è una cosa fondamentale, vanno benissimo le riforme istituzionali, io sono uno di quelli che dice che con le riforme istituzionali si mangia, perché una buona riforma fiscale deve avere una struttura delle istituzioni adeguata. Però insieme a questi massimi sistemi, a queste grandi riforme, per favore attiviamo il fondo tagliatasse entro un mese. Così quando l'Agenzia delle Entrate dirà che ha recuperato dei quattrini dalla lotta all'evasione e all'elusione nel corso del 2013, sappiamo dove mettere e sappiamo cosa farcene. Ecco, però dicono gli ascoltatori, Ok, fate le vostre proposte, e vorrei ancora sentirne qualcuna, ma mi dica anche da dove trovate le coperture. Ma le coperture sono quelle derivanti dalle maggiori risorse che derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione di cui sentiamo parlare ogni anno e che non sono appostate nel bilancio pubblico. Abbiamo detto, e c'è scritto nella legge di stabilità, che ci saranno 5 miliardi di risparmi sugli interessi del debito. Questi 5 miliardi non sono contabilizzati già nelle poste di bilancio ai fini della definizione dell'indebitamento. Quando emergeranno utilizziamoli subito per ridurre la pressione fiscale attraverso uno strumento legislativo che c'è. Per esempio, il fatto che paghiamo meno interessi sul debito perché lo spread è più basso, i tassi di interesse sono più bassi, vale 5 miliardi, quando verranno contabilizzati usiamoli per il cuneo, ma lei sa che per ridurre però in maniera significativa il cuneo fiscale di miliardi ne servirebbero almeno 20, perché con 5 manco te ne accorgi. Ecco, io invece su questo non sono d'accordo. Bene. Cioè la teoria che se buttiamo un euro dentro l'economia quest'euro scompare perché poco, io questa teoria non la riconosco, non l'ho studiata da nessuna parte. Avremo degli effetti se buttiamo un euro dentro il sistema economico proporzionali a un euro. Se buttiamo 5 miliardi che derivano dal risparmio di interessi a riduzione del cuneo fiscale per tutti, se utilizziamo la metà delle risorse che emergeranno dalla lotta all'evasione e all'elusione, perché emergeranno, sono 10 miliardi. 10 miliardi non è una bazzecola. No. Tra l'altro ci sarebbe l'effetto importante che non abbiamo mai sperimentato. Facciamolo una volta, come diceva la canzone, per vedere l'effetto che fa. Cioè intraprendiamo un percorso equilibrato, sostenibile, cauto di riduzione della pressione fiscale. Le persone lo capirebbero e capirebbero anche che dopo i sacrifici ci sono anche i benefici. E questo tra l'altro migliorerebbe, accrescerebbe il consenso sociale attorno alla lotta all'evasione. Quindi riduzione anche se graduale ma del carico fiscale partendo con iniziative da 5-10 miliardi che sono recuperabili attraverso i minori interessi che paghiamo sul debito e a ulteriori recuperi dell'evasione e dell'elusione fiscale, per dare anche il senso che la marcia si è invertita e quindi si riduce anche se non tutto in un colpo la pressione fiscale. Io sarei poi per concentrarli in realtà non su tutti ma sulle fasce a reddito più basso dei lavoratori dipendenti, quindi là dove so che le tasse vengono pagate tutte perché c'è la trattenuta in busta paga, ma questa è la mia idea. Però è ovvio che le 372.000 imprese del commercio e artigiane che hanno chiuso nel 2013, alcune avranno anche chiuso perché avevano un modello sbagliato di impresa, però molte hanno chiuso perché i consumi sono a terra. Io vi farei leggere cosa mi scrivono per esempio i gestori di carburante, su quanto carburante, ma non è perché cioè nel 2010 vendeva 1.191.000 litri, nel 2013 773.000 litri in un anno, vuol dire un crollo del 30% dei rifornimenti alla pompa. Non è che li gestisca il gestore, questo è il danno sull'economia e sui consumi. Quindi secondo lei la prima richiesta, la prima cosa che Renzi dovrebbe fare è anche ricontrattare il deficit al 3% in Europa, scorporando gli investimenti? Ma secondo me non è la prima cosa da fare, è la seconda o la terza. La prima cosa è andare avanti, come ha detto, sul discorso riforme istituzionali. La seconda, o magari la prima anche su un piano diciamo tattico più che strategico, è attivare il fondo taglia tasse. E poi dire che cosa ha intenzione di fare in termini di finanza pubblica, se no non puoi andare in Europa senza dire che strategia hai adottato, perché ti dicono no sicuramente. Quindi, è quello che poi ha detto la professoressa Reiglin in questi giorni, oggi, no? Non vado senza sapere qual è la strategia. Allora, diciamo che la strategia, tipo quali sono le misure di riduzione della spesa pubblica, che cosa viene fuori dalla spending review, perché esiste una spending review che non credo che si sia fermata, mi auguro che non si sia fermata a causa del cambio di governo. Vediamo che cosa viene fuori da quello e poi negoziamo correttamente il discorso del 3%. Se no facciamo la figura di quelli che, cambiato il governo, non stanno più ai patti, ed è una cosa che non ci aiuta. Allora, a chi dice 10 miliardi di recupero dall'evasione? No, i 10 miliardi, nel ragionamento di Mariano Bella, che è capo dell'ufficio studi di Confcommercio, erano la risultante dei 5 miliardi che risparmieremo quest'anno su minori interessi sul debito, perché lo spread è più basso, gli interessi sul debito italiano sono più bassi, uniti a circa, se ho ben capito, 5 miliardi di recupero dall'evasione fiscale. Ora, 5 miliardi in più su un'evasione che è stimata sui 100 miliardi non mi sembra una cosa impossibile. Dai, recuperare il 5% in più si può, in più. si può in un anno. Grazie, in bocca al lupo a lei, ma a tutti, soprattutto gli artigiani, commercianti italiani, aderenti o non aderenti all'associazione di categoria. Grazie appunto a Mariano Belle, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata a tutti voi in ascolto. Volete sapere, confermo il dato, Radio 24 ha fatto un 2013 in crescita come ascolto di quasi il 10% rispetto al 2012. Non so chi scriva altre cose su Twitter, dove, che dati utilizzi, e si conferma una delle pochissime radio in netta crescita rispetto all'anno prima. Grazie a tutti voi che continuate ad ascoltarci. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.